Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Fornire insieme acqua, elettricità e connettività dove nessuno di questi tre servizi esiste. È l'obiettivo di una startup che tra Italia, Spagna e Ghana sta sperimentando Wattly, che i suoi ideatori definiscono un computer solare termodinamico. Adesso capiremo di che cosa si tratta. Sta di fatto che questo progetto ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso dell'ultimo anno, tra cui il premio Gaetano Marzotto e lo European Pioneers. E sta per entrare in un altro programma, quello di accelerazione della European Space Agency. Ma insomma, diamo il benvenuto al fondatore di Wattly, Marco Attisani. Buonasera Attisani. Buonasera Maurizio, grazie di avermi chiamato. Buonasera. Prego, prego. Allora, che cos'è questa Wattly? Intanto se ce la descrivi. Si tratta effettivamente di un computer termodinamico, un grande computer, immaginati una macchina lunga 40 metri e larga 15, quindi stiamo parlando di un campo da tennis. Sì, esattamente, okay. 10 tonnellate. Come estensione. Che cosa fa? Gestita automaticamente in modo autonomo e solamente energizzata con il potere solare, con l'energia solare, con dei pannelli fotovoltaici, fornisce tre tipi di servizi. Purifica l'acqua da qualunque tipo di contaminazione, sia essa fisica, batteriologica o chimica, produce elettricità fuori dalla rete nazionale e permette la connessione ad internet in tutte le parti del mondo. D'accordo, quindi tre funzioni abbiamo detto appunto messe insieme. C'è questo computer, ci sono dei pannelli fotovoltaici che producono energia elettrica e ci sono anche dei pannelli termici, diciamo così, solari termici, che servono a trasformare l'acqua in vapore per poi poterla purificare. Esattamente, infatti il Wattly è una combinazione di diverse tecnologie che lavorano in maniera sinergica. Ecco, infatti perché metterle insieme? Perché non potevo mettere un pannello da una parte, un desalinizzatore, adesso dico una da una, e un computer con la connettività dall'altra ancora? Che senso ha tenerle tutte nella stessa macchina? Maurizio, innanzitutto direi che oggi per una tecnologia essere considerata del secolo XXI, se non sei connesso a internet non lo sei, già per definizione. Quindi qualunque tu cosa inventi deve essere per forza un computer con una capacità di calcolo. E la seconda cosa è che quando hai diverse tecnologie che lavorano in modo sinergico, favorisci una e l'altra. Il fotovoltaico, il pubblico deve sapere, non è amante del calore, è amante della luce del sole. Mm-mm. Un pannello fotovoltaico esposto al sole del Sahara non lavora bene. No, quindi no. Perde efficienza. Quindi noi cosa otteniamo? Raffreddiamo i moduli fotovoltaici e li facciamo lavorare in modo perfetto. E tra l'altro precalentiamo, così diciamo, l'acqua prima che questa entri nel sistema termico principale per essere bollita e purificata, diciamo. Ecco, qui appunto c'è un esempio di queste sinergie, poi appunto fornite connettività e uno di questi oggettoni, diciamo, di queste macchine, che tra l'altro hanno una forma, un bel design con una forma X, possono essere anche connessi l'uno con l'altro e formare un network, giusto? La base forse di un network anche internet. Assolutamente corretto, come sempre dico, un Wattly è una macchina stand alone, lavora da solo e ha una certa capacità di influire una comunità di persone, fino a 3.000 persone possono essere diciamo servite da Wattly, ma immaginati una rete di migliaia di queste macchine interconnesse tra loro. Vi piacerebbe? Sì, appunto. Si sta parlando, se ci pensi, di quello che è realmente la Internet of Things, ma dove non ci sono things, non ci sono cose e dove non c'è internet. Certo. Questa è una rivoluzione veramente, un paradigma. Ecco perché appunto queste macchine, questo sistema non l'avete pensato per il centro di Milano, ma l'avete pensato per quali realtà? Guarda, il paradigma economico di questa società guarda all'Africa, non solo, anche all'Asia, perché no? Stiamo parlando di economie emergenti dove il problema non è la povertà in assoluto, è la povertà di infrastrutture. Questo è un modo scalabile di creare questa futura infrastruttura intelligente con macchine che non si sono mai viste prima di adesso. Adesso appunto dove installerete? Intanto state costruendo il primo Wattly su piena scala a Udine. Quali saranno le prime installazioni? State cominciando, no, voi questo percorso? Sono 3 anni già di percorso, abbiamo già costruito diversi prototipi. In Ghana, no? Tra l'altro abbiamo portato anche a Ghana. Adesso, grazie ai fondi europei ricevuti, stiamo costruendo l'ultima versione, quella che io definisco il modello preindustriale, che sarà una copia perfetta del modello che verrà messo in vendita. Ecco, sì, a giugno lo presenteremo al mondo, lo stiamo costruendo in questo momento a Udine, come giustamente hai detto tu. Ok, e prossime le installazioni dove sono previste? Avete qualche installazione che già sapete che farete? Sì, abbiamo delle memorandum of understanding, quindi un contratto di intesa. Parliamo di Nigeria, nella capitale della Nigeria, parliamo di Senegal, parliamo del Middle East, quindi anche Arabia Saudita e Emirati Arabi. Ecco, io direi che possiamo concludere ricordando che il 7 aprile è partita una campagna di crowdfunding che serve a sostenere appunto il vostro progetto. Con chi la state realizzando? Qual è l'hashtag? Così insomma lo ricordiamo anche ai nostri ascoltatori. Ti ringrazio, sì, la piattaforma è Indiegogo e l'hashtag è BeWatley. Va bene, grazie Marco Attisani, allora in bocca al lupo. Grazie Maurizio e anche a voi, buon lavoro. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata.